Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Mebius. Allora, ciao Chiara. Eccoci qua, ciao a tutti. Cominceremo con il security manager. Il manager della sicurezza è una professione difficile e importante. E poi scenderai in campo con i rugbisti dallo spazio. Incominciamo. Dunque, parlare di sicurezza di questi tempi è quanto mai vicino alle sensazioni che abbiamo tutti, e il personaggio, anzi la professione di cui stiamo per parlarvi, c'entra proprio con la sicurezza, anche quella più problematica, il manager della sicurezza, security manager. C'è un'iniziativa europea, c'è una normativa che è arrivata di recente e che introduce dei criteri di formazione di questo tipo di professione. Per parlare di questo abbiamo due ospiti questa sera. Il primo ospite è Giuseppe Calabrese. Buonasera Calabrese. Buonasera. Lei ha un'esperienza lunga di 20 anni in questo settore ed è anche direttore di questo corso di formazione appunto sul security manager. Ecco, l'altro ospite che ha... Con noi c'è anche Raffaella Zanardi. Buonasera Zanardi. Buonasera a tutti. Lei è psichiatra all'ospedale del San Raffaele e invece ci illustrerà, ci racconterà di una competenza un po' particolare che neanche io e Federico insomma sapevamo, che il security manager, questa figura appunto molto richiesta adesso dalle aziende, dovesse possedere. Entreremo poi nel dettaglio, perché è una figura che deve avere capacità anche di comprendere qualche problema, magari ci può essere di ansia, ma anche stalking piuttosto che mobbing e così via insomma, ma poi entreremo più nel dettaglio. Partiamo un po' più dal generale. Allora partiamo da lei Calabrese. Sì, come diceva Chiara adesso poco fa, è un taglio amplissimo, perché il security manager deve avere a che fare anche con i classici problemi di sicurezza, un incendio, un allagamento, e deve arrivare appunto fino a fenomeni come quello dello stalking. Questa direttiva europea che cos'è che sancisce? Un percorso formativo che a questo punto diventa obbligatorio? Sì, la normativa europea, poi recepita da una norma nazionale, richiede un percorso formativo e professionale, perché sempre più il professionista della security è una figura trasversale alla vita delle aziende, ma direi anche alla luce degli eventi di questi giorni deve avere una competenza più ampia. Da qui il mix con l'Università San Raffaele, quindi la competenza della professoressa Zanardi e la professoressa Colombo, che aiutano a arricchire il bagaglio professionale di un professionista della sicurezza. Il corso di formazione ha questo tipo di orientamento. E lei queste competenze ce le ha, perché lei è security manager. Ci descrive un po', anche per far comprendere a tutti, che tipo di lavoro è, insomma, che cosa dovete saper fare? È un lavoro che, come dicevo, trasversale, quindi partendo da una idea tradizionale di esperto di sicurezza fisica, quindi di sistemi tradizionali di protezione di sicurezza. Oggi invece entra dentro i meccanismi organizzativi delle aziende e si deve occupare anche di atteggiamenti e di aspetti comportamentali all'interno della vita delle aziende. Quindi essere un uomo che mantiene un equilibrio nelle decisioni, partecipa alle decisioni, partecipa ai momenti di crisi e alle analisi dei rischi complessivi, che non sono soltanto dei rischi di security tradizionale, ma rischi anche delle aziende nella loro vita quotidiana. Certo, ma appunto prendiamo il classico caso. È chiaro che se si sviluppa un incendio, per esempio, non è che il security manager lo deve spegnere, però deve sapere quali sono tutta una serie di operazioni da fare nel momento in cui questa emergenza viene a verificarsi. Quindi, per esempio, non so, dare indicazioni alle persone, riuscire a predisporre, forse anche un dopo incidente, no? Deve aver organizzato bene la protezione del prima, quindi tutta la parte preventiva, quindi la sua competenza inizia dalla prevenzione, ma poi si chiude nella fase successiva della gestione, quando l'evento si verifica, e allora lì c'è tutta la fase di gestione dell'evento, che non è soltanto una gestione fisica degli aspetti di evacuazione o di emergenza, ma anche del supporto al dopo. Queste sono un po' le competenze tecniche, diciamo, classiche che ci aspettavamo. Ecco, poi c'è tutto un aspetto invece legato alle competenze più umane, umanistiche, sociologiche di cui appunto nel corso sono rappresentate anche da Raffaella Zanardi, che appunto essendo psichiatra le racconta e cerca di in qualche modo formare le nuove professionalità. Intanto questo corso quando è che c'è, quando parte, dov'è? È tenuto lì all'Istituto San Raffaele di Milano? Sì, questo corso è partito questa settimana, si tiene presso il Centro Università Vita Salute di Milano, siamo alla seconda edizione perché anche lo scorso anno era stato fatto per la prima volta questo corso di formazione e quindi siamo partiti entusiasti con anche alle spalle un piccolo bagaglio che abbiamo già avuto di richieste dell'anno scorso di sviluppare alcuni temi che hanno particolarmente interessato i discenti che abbiamo avuto e quindi a quello che avevamo diciamo programmato già lo scorso anno abbiamo aggiunto dei temi, avevamo parlato molto di processi decisionali per esempio l'anno scorso, di come si possono gestire degli eventi, avevano richiesto di parlare in specifico di alcune situazioni che si possono verificare in azienda, quindi di stalker a livello magari di email mandate da computer aziendale a qualche dipendente, piuttosto che del fenomeno del mobbing, piuttosto anche di fenomeni che si possono verificare in situazioni di emergenza, tipo panico generalizzato e queste situazioni patologiche. Ma deve avere esempio, veramente delle competenze. È un personaggio effettivamente è un eroe. Complicato. Ma per esempio, in caso di mobbing, noi sappiamo che lì ci sono anche delle procedure sindacali, ma in caso di mobbing il nostro esperto, la nostra esperta, che cosa fa? Ma allora è diverso il taglio, nel senso può essere avere un lavoratore che è in stato di mobbing, che si sente mobbizzato, poi ovviamente verificando se ci sono gli estremi o no, lui quello che deve guardare è la componente psichica. Un lavoratore che si sente mobbing può o non avere nulla dal punto di vista psichiatrico o avere uno stato depressivo, uno stato d'ansia e se questa persona ha un lavoro di responsabilità, adesso faccio l'esempio, ovvio che non sarà la torre di controllo di Linate, però ce l'auguriamo. Voi capite che esatto, se ho un dipendente che sta male, per cui la situazione di mobbing, io riconosco che lui ha portato all'attenzione dell'azienda di sentirsi mobbing e vedo che fa fatica, distratto eccetera, io mi occuperò di questa cosa e porterò all'attenzione questa cosa in modo che lui vada a farsi vedere dal medico aziendale eccetera, quindi riconoscere che una situazione di mobbing può avere dietro anche un aspetto psichiatrico importante che può creare un disfunzionamento anche lavorativo, perché sociale, ma dal suo punto di vista, la cosa del settore di manager, diciamo è un aspetto di tipo funzionale proprio a quel livello, quindi questo diciamo è importante, anche qui avere delle tecniche di comunicazione particolare con questa persona eccetera può far sì che si evitino determinati eventi. Il security manager deve essere anche in grado in qualche modo di tenere sotto controllo quelle che sono le comunicazioni tra i vari dipendenti, per cui magari se ci sono un flusso di mail ad esempio per quanto riguarda lo stalking da parte di un dipendente nei confronti di un altro dipendente, magari offensive, magari pesanti ecco, che è la persona che deve garantire, che insomma deve valutare anche questo tipo di situazione insomma. Allora, dal punto di vista del rischio eccetera, credo che sicuramente il security manager, che se vengono utilizzate delle strutture dell'azienda per configurare o no, questo è da valutare, un reato come in questo caso di stalking, certo è lui che se ne deve occupare, poi tutta la parte curativa eccetera no, solo il riconoscimento e come muoversi nell'ambito di questo caso, quindi andrà poi a riferire, raccoglierà il materiale, andrà a riferire a situazioni di competenza, lui deve sapere anche qua quale può essere il rischio. Faccio l'esempio, è ovvio che a seconda del contenuto di queste di lettere di missione oppure di appostamenti che lui verificherà tramite sorveglianze, quello che potrà fare come security dell'azienda e lì provvederà a vedere poi di avvisare il personale idoneo. E infatti a questo proposito mi sembra che appunto questo strumento, il corso di formazione, sia uno strumento, va bene, che ci richiedono dal punto di vista, come dire, legale, che le aziende devono avere. Però l'elemento forte di novità è che appunto questa persona ha bisogno di essere formata anche su questi aspetti strettamente legati alla psicologia, dove magari oltre a quello che abbiamo appena detto, mobbing o stalking così, possono venire fuori anche in situazioni molto più semplici, per cui magari ci sono tante aziende che lavorano in situazioni dove i dipendenti sono ad alto rischio. Adesso non pensiamo solo alle piattaforme petrolifere, ma anche quelle aziende che lavorano con gli altiforni, piuttosto che lì non si sviluppa anche lì una situazione un po' di stato di ansia, per cui il lavoratore magari deve essere rassicurato. Zanardi? E guarda, se vuoi un esempio ancora più comune, il lavoratore che è sottoposto a turni. Se un lavoratore ha un disturbo, per esempio, dell'umore, un disturbo bipolare, senza entrare nel merito, sicuramente il cambiare turno, dover dormire di giorno quando ha lavorato la notte, questo può essere già un fattore stressante. Per cui se qui è a conoscenza di questa cosa, troverà insieme al medico dell'azienda o di competenza delle soluzioni per prevenire un rischio, perché può essere appunto questo continuare a privarsi di sonno e avere questa turnazione, può essere un rischio per una persona che ha già un problema sottostante, che viceversa senza i turni sarebbe perfettamente controllato le terapie. Certo, un rischio sia per la persona che per l'azienda, certamente. Esattamente, okay. Esattamente. Va bene, Calabrese Zanardi, grazie per essere stati qui con noi e buon lavoro. Buon lavoro, buon corso. Grazie, arrivederci. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Non stavamo scherzando prima della pausa, Federico mi ha abbandonato, l'abbiamo detto, è sceso in campo, insomma è andato a incontrare i rugbisti qua a Milano. Io purtroppo sono un po' raffreddata e non ho potuto seguirlo, mi dispiace molto devo dire, però siamo in collegamento con lui, li sta raggiungendo. Insomma, Federico, dove ti trovi? So che insomma sei in compagnia di questi ragazzoni del rugby. Dunque Chiara, io sono qua ai bordi di un campo di rugby sintetico qui a Milano, in un centro sportivo per i milanesi, insomma lo conoscono, del Leone XIII, e sono qui con Massimo Cozzaglio. Buonasera Cozzaglio. Buonasera a voi. Allenatore della squadra, e con Paolo Sale che è il tecnico del sistema di cui stiamo per parlarvi. Buonasera Sale. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, nome della squadra? Associazione Sportiva Rugby Milano. Come siamo messi nel ranking delle squadre? Il campionato nazionale di Serie A è, diciamo, il secondo livello in ordine di importanza. Nel rugby italiano c'è un primo campionato di eccellenza e a seguire un campionato di 24 squadre di Serie A su base nazionale. E le 24 cercano di andare il meglio possibile per entrare tra le 10. Per entrare tra le 10 di eccellenza. Va bene, io tornerò a lei dopo. E adesso invece con Paolo Sale. Federico, scusa, mi dispiace tanto non essere lì con te, con voi, insomma, ecco. Descrivimi un po' che cosa stai vedendo. Ecco, mi chiede Chiara dallo studio, cosa sto vedendo? Sto vedendo un monitor, poi sto vedendo, sembrano dei piccoli telecomandi o dei cellulari come c'erano una volta, telefonini, con su dei nomi, sono i nomi dei giocatori, Sale? Sono i nomi dei giocatori, chiaramente loro nascono con un numero di serie, quindi noi per semplicità abbiamo messo su un nome per identificare immediatamente il giocatore e quindi scaricare i suoi dati subito. Sono delle unità GPS che vanno indossate sul giocatore mentre fa la sua attività, chiaramente è un'unità di accumulo di dati, sta registrando dei dati, in questo momento è sul tavolo ma quello lì è fermo, quello che c'ha indosso il giocatore sta già accumulando dati. Infatti in un angolo dello schermo io vedo dei pallini, uno blu, uno rosso, uno verde, che si muovono. Che Federico, qui... ma è qui c'è un collegamento satellitare, insomma, che dà la posizione dei singoli giocatori? Eh sì, Chiara, la Chiara mi chiede, dice, ma c'è un collegamento satellitare, dov'è che è? Dalla schiena, no? Ogni giocatore, dove ce l'ha? Vicino al collo? Sì, ce l'ha sotto la base del collo, il classico coppino. Sul coppino hanno questa unità GPS che fra tutti gli studi e tutte le aziende hanno studiato che è il punto meno toccato da tutti i casi, quindi anche quando cade, quando viene colpito, quindi è il punto meno pericoloso per tutto. Il segnale continua a partire, il satellite lo rimanda al sistema e voi avete in pratica un tracciamento di tutte le posizioni, di che cosa? Posizione poi? Allora, noi possiamo ricevere, allora l'unità GPS accumula dati su velocità, accelerazione, frequenza cardiaca e riesce tramite delle formule a darci anche un consumo metabolico e anche a darci un carico di lavoro. Quindi sono dei parametri fondamentali, mi pare di capire, per quella che è la vita e le prestazioni di un atleta. Infatti vengono usati principalmente per capire il miglioramento del giocatore, il suo sviluppo, la sua possibilità di miglioramento e il suo sforzo. Noi magari siamo riusciti a capire che questo giocatore ci può dare per esempio 100 e lui in quel momento sta dando 60 e quindi noi riusciamo a capire che lui in quel momento non sta dando il massimo. Questo sistema e quindi questi che prima ho chiamato insomma, segnalatori, sono sensori, non possono essere indossati in gara. No, sono i cardiofrequenzimetri che non possono essere indossati. Solo il cardiofrequenzimetro? No, questo può essere indossato in gara, l'unità GPS. Il cardiofrequenzimetro ha un'unità rigida e quindi considerato un po' pericoloso sugli impatti e i colpi che possono ricevere sul campo. Quindi durante la gara però, quella vera, un pezzo essere di informazioni importante le avete. Sì, sì, l'unica cosa che ci può mancare è la frequenza cardiaca, che ci sono dei sistemi ancora più evoluti, ma in questo momento noi non abbiamo questo, abbiamo il classico cardiofrequenzimetro da applicare al torace e c'è una parte rigida che può considerarsi pericolosa. Un'ultima domanda, questo sistema qui, così visto, sembra semplicino, lo state sperimentando da qualche mese, è complesso da gestire invece? Non è semplice, diciamo che ci sto dedicando del tempo, stiamo imparando ad usarlo giorno dopo giorno, piano piano entriamo nelle formule più difficoltose, sia lo scarico del dato, sia la presentazione del dato, perché poi comunque il sistema ci stampa un rapporto a seconda di come noi desideriamo sviluppare i dati, ci stampa un rapporto e noi lo presenteremo all'allenatore in funzione di quello che ci viene chiesto. Ma Federico, chiedigli che relazione c'è insomma tra chi legge i dati e poi invece quello che è il lavoro dell'allenatore. Mi chiede Chiara com'è il rapporto fra il sistemista e l'allenatore. In fondo lei deve solo raccogliere dei parametri, però in realtà forse dovete imparare a lavorare strettamente. Sicuramente, come in tutte le cose, se tutti e due abbiamo un po' di competenza dell'altro, riusciamo a capire, andare in sinergia e riuscire a ottimizzare il lavoro stesso, insomma. Giocatori invece niente, loro se lo devono tenere addosso. Il giocatore devono solo indossarlo, anzi cerchiamo di disturbarli il meno possibile nel farglielo indossare. Ma dai Federico, sentiamo anche qualche giocatore, cosa ne pensa? È contento insomma di essere costantemente sorvegliato? Chiaro, qui con me un giocatore, Nicola Ferrari, ruolo? Pilone. Ah, quindi quello sì. Centrale. E Nicola infatti è piuttosto robusto. Si sente osservato? Beh, in realtà se uno ci pensa prima di iniziare sì, ma poi quando si inizia ci si dimentica di averlo e come se non ci fosse nulla. Di solito può accadere che delle nuove tecnologie i giocatori, come dire, le accettino un po' in tutti gli sport, però magari gli danno fastidio, ma può essere, oppure sente che funziona, che può essere utile. Beh, sicuramente è una cosa che può aiutare tutti quanti a crescere, sia dal punto di vista atletico che di gioco. È una cosa secondo me molto utile che si può continuare a utilizzare per crescere sempre di più. Ecco, con Massimo Cozzaglio vorrei avere il punto di vista dell'allenatore, cioè come effettivamente può servire questa cosa. Però prima le chiedo, è un sistema abbastanza costoso? È un sistema costoso, parecchio costoso, non sono molte le società italiane di rugby ad averlo. La nostra società, pur non essendo ricca, è riuscita a entrarne in possesso grazie all'iniziativa di una nostra consigliera, nonché la nostra addetta stampa, Sara Bonifazio, che partecipando a un concorso della Vodafone per il Vodafone First, presentando il suo progetto di squadra tecnologica, è riuscita a vincere questa importante apparecchiatura. Ha vinto il premio. Sì. Effettivamente potrebbe essere un salto di qualità nell'allenare un team? Sì. Può rappresentare un grosso salto di qualità proprio per tantissimi aspetti, sia sulla preparazione atletica sia sull'analisi del gioco. Noi ci stiamo lavorando da qualche mese e attualmente stiamo lavorando su due fronti. Da un lato uno storico per ogni giocatore, in modo da riuscire a capire le sue variazioni di forma in rapporto al lavoro che gli viene proposto. Dall'altro lato un'analisi ruolo per ruolo delle partite in modo da andare a ottimizzare le esigenze di preparazione atletica e più in generale proprio quale è il miglior allenamento che noi possiamo predisporre in vista della partita, che è fatta di tutta una serie di dati. Noi utilizziamo molto la video analisi, associare i dati che questo sistema ci dà alla videoanalisi ci permette di sapere, di avere molte informazioni in maniera precisa e dettagliata. Videoanalisi vuol dire il video della partita? Il video della partita che minuto per minuto, secondo per secondo può essere poi rapportato ai dati del GPS, sulla velocità, sugli spostamenti, sulle traiettorie nel campo, sul carico di lavoro e per cui ci permetterà di arrivare a ottimizzare al meglio quella che può essere non solo la preparazione atletica ma proprio l'impostazione stessa dell'allenamento. Certo Federico, questo qui è uno strumento micidiale, insomma importante per l'allenatore, riesce a vedere cose che altrimenti non vedrebbe. Ecco, giustamente Chiara mi chiede, allora l'allenatore pensa di riuscire a vedere delle cose che effettivamente invece con due occhi normali e magari anche anni di esperienza non si riuscivano a vedere perché erano troppo rabite, troppo nascoste? Assolutamente sì, si possono cercare delle conferme o si possono anche avere dei dati contrastanti a quella che può essere stata l'impressione durante la partita e all'analisi video, insomma. Inoltre la cosa anche importante è che avendo uno storico, andando a formare uno storico per ogni giocatore, noi riusciamo anche in qualche modo a prevedere degli stati di forma o dei cali di stati di forma, per cui rivolgendoci poi al nostro staff medico e ai preparatori atletici andare anche a capire il perché, il per come, il piccolo infortunio piuttosto che lo stato di stress, di affaticamento e quant'altro possa influire sulla prestazione. Chiara, sta arrivando James Jusey, che è un allenatore neozelandese che è l'assistente di Massimo Cozzaglio, l'allenatore della squadra. Gli chiedo una cosa sola, ma glielo voglio chiedere. Ok, allora Federico, mentre tu intanto intervisti il coach, fammi un attimo chiamare dall'allenatore che ho un altro paio di domande da fargli subito dopo. Va bene. Allora James, volevo chiederle questo. In Nuova Zelanda questo sistema si sta già utilizzando. Effettivamente funziona, cioè è qualcosa che può dare dei risultati interessanti anche per voi, insomma, che lo conoscete da più tempo. Exactly, some players could hide on the field and not be seen. Now this sort of technology, the GPS, picks up a player where they are on the field every second of the game, so we can see where they are. For instance, Ecco, Jose mi sta dicendo delle cose che in effetti abbiamo già sentito prima. È abbastanza interessante che lui usa un termine lazy, pigro, perché questo sistema riesce a raggiungere e identificare appunto i giocatori che insomma dovrebbero dare di più ma che in qualche modo per varie ragioni tendono magari a nascondersi, lui usa anche questo termine, in certe zone del campo. Naturalmente non è che sono i furbetti, no? Ecco. And if you're out of the game, you're not in the defensive line or attacking line, therefore you're no use to the team. E poi James quello che dice che effettivamente durante la partita l'allenatore deve guardare le fasi di gioco per dare istruzioni rispetto appunto a raggiungere una vittoria e quindi non riesce assolutamente a verificare quali sono i movimenti di tutti quelli che per esempio non sono implicati nel gioco. Il sistema dopo riesce invece a darti questa visibilità. Oh, grazie Federico, ecco, mi raccomando, so che tu insomma stai girando anche dei video, meno male perché non sono potuta venire e mi dispiace, che pubblicheremo sul nostro blog, io avrò modo di vederlo da lunedì sul blog di Mebius, sul sito della radio, radio24.it. Però insomma mi è capitato di vedere spesso delle partite di rugby anche in TV e avevo qualche domanda sul fisico dei rugbisti, insomma capisco che Federico non se la sentisse di farle, insomma. Vabbè, allora nel frattempo ho raggiunto io al telefono Massimo Cozzaglio, intanto buonasera, mi spiace non essere lì, comunque insomma i fisici dei rugbisti sono molto diversi, ad esempio il pilone che abbiamo sentito è un omone piuttosto muscoloso e imponente, ecco, e anche un po' in carne, insomma, ma non so Massimo, ma effettivamente mangia tanto o è così di costituzione? Dunque, i piloni devi sapere, Chiara, che sono merce rarissima nel nostro sport, perché sono giocatori atleti che devono supportare delle spinte e delle pressioni veramente notevoli, per cui i piloni sono merce rara. I piloni ben allenati, insomma, non sono tanto grassottelli perché devono andare in giro per il campo, devono correre anche loro nelle grandi velocità. E certo è che queste masse d'uomini così grandi, se solo mollano un po' la preparazione fisica, l'attenzione, tendono spesso a lasciarsi un po' andare ai piaceri della tavola, per cui La risposta, insomma, è metà e metà. Un pilone ben allenato no, ha una massa di muscoli, sono 110 kg, 105 kg di muscoli che resistono a pressioni tremende e corrono per il campo. Hanno solo i muscoli un po' più tondi, diciamo così, perché noi lo vediamo un po' più tondeggiante, ma in realtà è una montagna di muscoli. Hanno i muscoli un po' più tondi, sì, possiamo dire così, possiamo dire così. Stiamo parlando, sì, comunque di persone veramente sui 100, sopra i 100 kg molto spesso, per cui con una muscolatura, soprattutto quello che è importante, che è un po' diverso agli altri giocatori, la muscolatura del collo e delle spalle è particolare, anzi, un buon pilone sostanzialmente se non ha collo è molto meglio, ecco. Ah, perché comunque deve sopportare, insomma, sostenere tutta la forza bruta degli altri che gli vanno addosso. È un punto critico, riceve il suo collo, riceve delle spinte, delle pressioni veramente notevoli, per cui diciamo che un collo alla Modigliani, ecco, non troverebbe posto in prima linea tra i piloni. Abbiamo bisogno di gente col collo, che abbia un collo abbastanza, non particolarmente slanciato. No, un po' tozzo, ecco. Un po' tozzo. Il bello del rugby è che esistono poi anche dei ruoli in cui abbiamo il fisico molto atletico, asciutto, scattante, no? Quelli che devono correre. Ma non solo, ma anche insomma adesso direi su livelli anche già come il nostro, difficile vedere giocatori in campo non in perfetta condizione atletica, fa molto lavoro di potenziamento, di velocità. Un buon abito muscolare, diciamo, ecco. Io quindi aspetto con molto piacere tutti i video che Federico porterà a casa sul blog lunedì. Ecco, l'ultima domanda che volevo farti è, forse questa è una domanda un po' femminile, non so se te l'aspettavi, insomma, quando i giocatori si scontrano in maniera così violenta, insomma, non è che si fanno male, vero? Ecco, tu ridi, però qualcuno se lo sarà pur chiesto. Parlando seriamente, no, adesso non ti so dare il dato esatto di questa stagione, dall'inizio di questa stagione sino ad oggi alla nostra squadra, ma il problema degli infortuni è molto elevato, per questo preparazione atletica e allenamento sono indispensabili anche per prevenire proprio gli infortuni. Cioè noi, da noi sicuramente non ci sono solo gli infortuni da muscolo che si stira, da strappo e robe del genere, è proprio gli infortuni da impatto, e quelli sono abbastanza frequenti. Quanto più sei allenato, quanto più allenato bene, puoi ridurne il numero, però no, vabbè, insomma adesso lunedì mattina non si sveglia mai molto molto freschi. Felice, ecco. Lunedì mattina non è che sono sempre no, adesso, in forma. A parte gli scherzi, insomma, tanta parte degli allenamenti sono appunto proprio volti a non farsi male, insomma, a capire come non farsi male. Da un punto di vista atletico, da un punto di vista di forza muscolare, ma anche da un punto di vista tecnico, sicuramente. Adesso inizia sempre più da piccoli. Ecco, infatti, cercare di allenarli anche con un'idea di prevenzione. Sta diventando uno sport molto diffuso anche tra i bambini, quindi in realtà, ecco, in realtà tutto questa pericolosità non c'è. Ecco, poi vabbè, stiamo parlando di professionisti, ma insomma, per gli amatori non c'è nessun pericolo, insomma. Scendendo di livello, a livello di bambini, eccetera, eccetera, ovviamente cambia un po' tutto, insomma. Va bene, grazie Massimo, ti lascio. Ciao, Federico. Ciao! Siamo in conclusione, mi ricollego con Federico dal campo e mi raccomando, ciao Federico, saluta tutti, saluta tutta la squadra con grande affetto. Sì, adesso prima di andare via li saluto tutti a nome tuo. Grazie, allora buona settimana, come diciamo noi di solito, a tutti e a tutte. Ok, e mi raccomando, ricordati i video lunedì su www.radio24.it sul blog di Mebius. Ciao!